soltanto una sfera di fuoco, più grande del sole, più vasta del mondo. Nemmeno un grido risuonerà. Catene, i morti, coperte, di neve.